Sunniti, sciiti, imam, niqab, sufi, jihad, sharia. Quante volte abbiamo sentito questa parola senza esserne sicuri del significato? L'Islam e le parole che non possiamo non sapere. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Sharia significa sentiero ben battuto. Il velo agli occhi di coloro che lo scelgono è un atto di modestia. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, puntata speciale. Buona domenica da parte mia, da parte di Antonio Tale, Elisa Pancaldi in redazione, mentre in regia a dare ritmo e musica a questa puntata, a questo nuovo viaggio di Nessun Luogo, c'è Andrea Roccabella. Vi ricordo la nostra presenza sui social, in particolare la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Lì potete commentare, fare domande e scaldarvi un po' i muscoli anche voi in attesa del quotidiano, quando Nessun Luogo Lontano dal 31 luglio diventerà appunto appuntamento quotidiano. Quest'oggi di cosa parliamo? Lo avete sentito dalla nostra copertina, il tema di oggi è le parole dell'Islam, le parole che leggiamo comunemente sui giornali, che ascoltiamo al telegiornale, parole spesso strumentalizzate, equivocate, fraintese, molto spesso con dolo, perché è inutile nascondere che esista una stampa islamofoba. Molto spesso, altrettanto spesso, queste parole vengono equivocate e fraintese per ignoranza. E allora in questa puntata di Nessun Luogo vi propongo un viaggio attraverso alcune di queste parole dell'Islam. Abbiamo scelto quelle più ricorrenti e forse più importanti, insomma, le parole che non possiamo non conoscere. E siccome questo viaggio lessicale e semantico prevede in qualche modo la destrutturazione di alcuni stereotipi che abbiamo in testa e anche un po' di luoghi comuni legati all'Islam, ad accompagnarci in questo viaggio c'è il metal indonesiano firmato dalle Voice of Bassprot. Siamo nell'ovest di Giava, siamo in Indonesia, il più popoloso paese musulmano al mondo. La voce che sentite è quella di Kurnia, che è la leader, chitarrista e voce di questa band. Sono 13-17 anni, vanno al liceo, salgono sul palco col velo, con l'hijab, e prevedono una simbiosi tra la buona pratica musulmana e il death metal. Pensate un po', questo a dispetto appunto di alcuni stereotipi che potremmo avere in testa. È anche vero però che le tre ragazze hanno causato parecchi mal di pancia agli elementi più conservatori islamisti indonesiani, hanno persino ricevuto minacce di morte in rete. Certo, si potrebbe obiettare anche, come dire, sulla qualità strettamente rock e death metal, ma non sono un esperto, quindi lascio a voi giudicare. Ma torniamo alle parole dell'Islam e lo facciamo con la prima parola e col primo ospite. Abbiamo raggiunto Lorenzo Declic, giornalista, esperto di mondo islamico contemporaneo. Ha insegnato storia dell'Islam nell'Oceano Indiano all'Università Orientale di Napoli. Lo potete leggere per esempio su Limes o su Vice. Ha scritto recentemente L'Islam in 20 parole, edito dalla Terza. A lui abbiamo chiesto la differenza fra sunniti e sciiti. Sono le due grandi correnti dell'Islam, una differenza spesso sottovalutata, altrettanto spesso erroneamente utilizzata come lente unica per comprendere, per esempio, il braccio di ferro tra i paesi del Golfo e l'Iran. La differenza tra sunniti e sciiti, raccontata da Lorenzo Declic. Sì, allora la prima cosa da dire è che i sunniti sono molti di più degli sciiti. I sunniti sono più o meno l'85% di tutti i musulmani al mondo, questa è la prima cosa da dire. E la seconda cosa importante è da dire che questa suddivisione è una suddivisione molto molto ampia, molto sommaria, cioè all'interno di sunniti e di sciiti ci sono ulteriori divisioni, moltissime ulteriori divisioni, e quindi quando si parla di sunniti e sciiti si fa generalmente una generalizzazione, insomma, abbastanza grossa. Per fare un esempio, gli sciiti iraniani, che sono quelli più conosciuti, quelli che vengono presi come prototipo dello sciita nel mondo, sono molto diversi dagli sciiti per esempio dello Yemen, con cui sono diciamo in relazione di anche amicizia, rapporto diciamo geopolitico di mutua utilità e così via dicendo, ma dal punto di vista religioso sono molto diversi. E anche nel campo sunnita ci sono divisioni enormi. In quel caso, per esempio, si dice sempre che non so, l'Arabia Saudita vuole prendere la testa diciamo del mondo sunnita anche in senso bellico. Bisogna ricordare che i sauditi sono wahhabiti, che ovvero fanno parte di una corrente dell'Islam che fino a 30, dell'Islam sunnita che fino a 30 anni fa era considerata anche eretica dai sunniti stessi. E dietro a queste suddivisioni molte volte ci sono in realtà delle realtà geopolitiche molto, molto forti, appunto ho citato l'Iran e l'Arabia Saudita non a caso, proprio perché dietro a molti degli scontri che vengono raccontati con la dicotomia sunniti-sciiti ci sono interessi di questi due paesi molto, molto pronunciati, sì. Per cui di fatto si intitola a loro diciamo il predominio di questi due campi, che però sono al loro interno assolutamente diversificati, e soprattutto alcuni interessi che sono poi appunto di interessi regionali, economici, di egemonia regionale e così via dicendo, vengono in qualche modo letti su questa disputa, che è una disputa soprattutto teologica, dottrinale e così via dicendo, ma poi nella storia non ha avuto tutte queste fasi di conflitto. E questo era Lorenzo Deklic che ci ha iniziato a spiegare le prime differenze tra sunniti e sciiti, le due grandi correnti dell'Islam. Adesso facciamo una piccola pausa e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona domenica, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci e questa sera vi stiamo raccontando le parole dell'Islam, quelle parole che non possiamo non conoscere e che pure leggiamo quasi quotidianamente o ascoltiamo al telegiornale o al radiogiornale, non sufficientemente spiegate, molto spesso fraintese. Il nostro primo ospite è Lorenzo Deklic, esperto di mondo islamico, giornalista ma anche docente, ci stava spiegando la differenza fra sunniti e sciiti, che sono le due grandi correnti dell'Islam. A lui abbiamo chiesto anche quali sono le differenze più strettamente di culto fra appunto sunniti e sciiti. Sentite. Ma le differenze principali sono prima di tutto la composizione diciamo del personale religioso. Nello sciismo c'è una gerarchia dei ministri del culto abbastanza pronunciata, tanto che si parla di un clero, mentre nel sunnismo questa cosa è molto ma molto più stemperata. E i criteri per arrivare a essere degli esperti in religione sono completamente diversi l'uno dall'altro. E, più in generale, diciamo, per esempio, ecco, i sunniti hanno 5 pilastri dell'Islam, gli sciiti ne hanno 6, cioè insieme ai 5 che sono quelli del culto, insomma, la preghiera, la dichiarazione di fede, il pellegrinaggio, l'elemosina rituale, queste cose qui, c'è anche il jihad. Ma il jihad non inteso in senso appunto anche lì per forza guerresco, il jihad significa sforzo, può essere anche inteso in senso individuale come sforzo diciamo per essere un buon musulmano. Sì. Ecco. Altre grosse differenze ci sono dal punto di vista giuridico, nel senso che si tratta di scuole diciamo di pensiero che poi si traducono in dottrine e obbligazioni per i musulmani, che sono molto diverse fra loro, ecco, hanno delle tradizioni molto, molto, molto consolidate e molto diverse fra loro. Quindi esistono differenze, però diciamo questa dicotomia non spiega totalmente certi conflitti che esistono fra paesi sunniti e sciiti, perché dici alla fine sono interessi economici e più prettamente politici quelli che poi soggiacciono, insomma, a queste. Sì, la sensazione è che appunto due grandi paesi come l'Arabia Saudita e l'Iran, diciamo che dal punto di vista, nel momento in cui devono farsi la guerra per procura, cioè accendere conflitti qua e là nel Medio Oriente, eccetera, si appellano alle appartenenze religiose, però il loro fine, diciamo, principale, ecco, il loro fine principale è un fine di tipo meramente politico, geopolitico, sì, economico e così via. E un caso appunto è questo del che ci fa capire insomma un po' la situazione, è questo del Qatar, in cui sostanzialmente l'Arabia Saudita si arrabbia col Qatar dicendo che fomenta il terrorismo e così via dicendo, ma sotto a questa cosa c'è il fatto che il Qatar ha buoni rapporti economici con l'Iran, sì, laddove Arabia Saudita e Qatar condividono la stessa dottrina wahhabita, per cui ecco, diciamo, dal punto di vista religioso dovrebbero stare entrambi dalla stessa parte, combattere per un mondo islamico sunnizzato e così via dicendo, sunnitizzato. Poi quando si tratta invece di andare a vedere gli interessi reali economici, di egemonia nell'area e così via dicendo, il re saudita non si fa nessun problema, ecco, a chiudere tutti i rapporti con il Qatar, sì. Anche se appartengono alla stessa corrente religiosa. Certo. Ecco. Senti Lorenzo, l'altra parola che cerchiamo di analizzare un po' meglio, mettere sotto screening, è Sharia, perché tante volte la si legge sui giornali e si leggono frasi, per esempio si vuole imporre la Sharia nel nord del paese. Mi riferisco per esempio quando Boko Haram aveva occupato alcuni degli stati del nord della Nigeria, dimenticando per esempio che alcune componenti della legge islamica già erano vigenti nel nord della Nigeria, per esempio. Partiamo dalla definizione di Sharia e poi cerchiamo di capire esattamente quali effetti dispiega sulla realtà e sulle comunità musulmane, non solo. Sì, beh, Sharia significa sentiero ben battuto, insomma, la giusta via, la giusta strada, e individua un set, diciamo, di regole che ritroviamo nel Corano e nelle tradizioni che sono questo corpus letterario enorme che riguarda la vita, i fatti, insomma, i detti del profeta Muhammad. E il fatto è che questo gruppo di regole in alcuni casi è molto stringente, cioè ci dice per esempio come i musulmani devono fare il pellegrinaggio, come devono pregare e cose di questo genere in maniera molto diretta e molto esplicita, e invece in tanti altri casi in questi testi si trovano, non so, delle indicazioni, ecco, delle norme che possono essere anche morali, molto vaghe e così via dicendo. Quindi si lascia spazio, diciamo, questa cosa dà spazio a interpretazioni più o meno chiuse, aperte, illuminate o oscurantiste di queste indicazioni, il che significa che, ecco, dire imporre la Sharia è molto ambiguo, anche lì rientra, sì, molto, bisogna vedere chi è che lo dice e come. Molti paesi, quasi tutti i paesi arabi islamici e anche quelli musulmani hanno per esempio in Costituzione un richiamo alla Sharia, no? E allora qui si fa molto allarmismo, no? Si dice, ecco, questo significa che poi in fondo c'è l'imposizione di regole come, non so, il taglio della mano, sì, per i ladri, queste cose per i ladri, cose di questo genere. Poi di fatto è un richiamo, fra virgolette, quasi culturale, no? A una tradizione che in un paese può essere molto aperta e in un paese può essere molto chiusa. Ritornando ai paesi del Golfo, ecco, quelle sono tradizioni molto chiuse, per cui diciamo l'appellarsi alla Sharia in quei luoghi là vuol dire davvero trovare pene di morte terribili, tagli delle mani e così, lapidazioni e cose di questo genere. Sì. In altri paesi, come, non so, la Tunisia, che ha una costituzione molto simile alla nostra, ecco, questo richiamo è un richiamo molto generico, culturale. Sunniti, sciiti e Sharia sono le prime tre parole che vi stiamo raccontando in questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano tutta dedicata alle parole dell'Islam, quelle parole spesso date per scontate da alcuni nostri colleghi che invece secondo noi meritano di essere spiegate e analizzate per meglio comprendere quello che accade. E la Lorenzo Declic, lui ce le ha spiegate molto bene. Se volete, il suo libro è L'Islam in 20 parole, edito dalla Terza. Avevo erroneamente ridotto in qualche modo il suo libro a sole 10 parole. L'Islam in 20 parole, edito dalla Terza, che è un bello strumento per leggere meglio i giornali, ascoltare meglio i telegiornali e i radiogiornali. Adesso dobbiamo procedere in questo viaggio lessicale e semantico, e quindi è il momento di voltare pagina. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Allora, buongiorno Chiara Pellegrino, lavora in redazione alla Fondazione Oasis, esperta del mondo islamico. Con te, Chiara, analizziamo una parola che non è estremamente ricorrente nel panorama mediatico italiano, però ha una sua importanza, e la parola è Sufi. Chi sono i Sufi, Chiara? Beh, il Sufi è, diciamo, un pellegrino che fa della ricerca di Dio lo scopo ultimo della sua vita. È un attesamento, diciamo, pratico, che quindi è caratterizzato da digiuni, da penitenze, da veglie, da preghiere prolungate, che è volto a perfezionare l'anima e realizzare fin dalla vita terrena la presenza divina nell'uomo. Questa componente quanto è presente nel mondo musulmano di oggi? Questa componente è da sempre molto presente, infatti fin dai suoi albori sono nate numerose confraternite in tutto il mondo arabo e islamico, e quindi oggi lo vediamo presente, diciamo, dal Pakistan al Maghreb, al Medio Oriente, alla Turchia. E questa era Chiara Pellegrino della Fondazione Oasis, che ci stava raccontando il movimento Sufi, una delle correnti forse meno conosciute dell'Islam, quella più mistica e appunto meno nota. Adesso una piccola pausa, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora una buona domenica, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano. In questo viaggio attraverso le parole dell'Islam vi stiamo raccontando il sufismo e i sufi, e siamo con Chiara Pellegrino, alla quale abbiamo chiesto anche qual è la relazione, qual è il rapporto tra l'Islam più ortodosso e appunto quest'anima più mistica dell'Islam stesso. Sentite. Ma diciamo che il sufismo ha conosciuto fortune altalenanti. E oggi è un po' tra l'incudine e il martello, diciamo, nel senso che in alcuni stati è fortemente sostenuto dai regimi politici in quanto movimento quietista, che quindi può aiutare ad arginare i movimenti, diciamo, salafiti e dell'Islam radicale. Però, come dicevo, ha suscitato anche delle reazioni molto avverse da parte appunto dell'Islam radicale, che lo vede come una minaccia al purismo del monoteismo islamico, e quindi succede spesso che gruppi estremisti appunto usino esplosivi per annientare questi gruppi sufi, e andando a colpire i santuari, i loro luoghi di culto, distruggendo le tombe dei loro santi, per esempio. È corretto in qualche modo che sostenere la tesi per cui il sufismo vuole o può essere anche un antidoto rispetto all'estremismo, e quindi da questo punto di vista può essere anche strumentalizzato politicamente? Sì, sicuramente molto strumentalizzato politicamente. È vero che può essere un antidoto, diciamo, dipende molto dagli stati. Per esempio, in Turchia oggi gli ordini sufi, che sono organizzati nelle cemat, ovvero delle comunità religiose, sono molto forti anche dal punto di vista politico. Per esempio, in Turchia è forte, molto forte, il gruppo di Fethullah Gülen, Gülen, ricordiamo che è stato accusato da Erdogan, di essere il grande cospiratore, no, dell'ultimo colpo di Stato. Esatto, esatto. E l'ultimissima domanda invece è più strettamente liturgica, diciamo. I Sufi vanno alla moschea, rispettano il venerdì come giorno di preghiera, rispettano il Ramadan. Come si collocano rispetto appunto all'Islam tradizionale dal punto di vista della pratica del culto? Certo. Sì, i Sufi sono dei musulmani ortodossi a tutti gli effetti, diciamo. In più però hanno alcune particolarità dottrinali, per esempio usano il culto dei santi, quindi si tratta di andare a pregare in moschee che sono nate attorno ai mausolei o alle tombe di persone che loro considerano dei santi. E questa cosa qua ha creato loro molti problemi, perché appunto l'Islam, le frange dell'Islam più radicale colgono questa loro particolarità per accusarli di essere di fatto dei politeisti, cioè di mettere in dubbio l'unicità di Dio, certo. Quindi il monoteismo puro che caratterizza l'Islam. E poi l'altra caratteristica è che alcuni gruppi di Sufi usano aderire a delle confraternite. Questa adesione può essere una semplice adesione del cuore, quindi senza che sia necessario un percorso per diventare degli adepti veri e propri, sì. Oppure ci sono delle altre confraternite che prevedono proprio un percorso di iniziazione dell'adepto al proprio maestro. Quindi questi diciamo che sono un po' gli aspetti che caratterizzano i Sufi. Sì, e che poi li hanno resi in più occasioni, come ricordavi, durante la storia, anche recente, appunto, grandi nemici rispetto invece ai movimenti estremisti. Grazie mille, Chiara Pellegrino, per essere stata grazie con noi e averci illuminato su un aspetto dell'Islam che forse in pochi ancora conoscono. Grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci. E sulle note di Franco Battiato, che insomma i più attenti avranno riconosciuto anche la motivazione per cui ci siamo adagiati su queste note, perché il cantautore siciliano molto spesso si alimenta e si nutre proprio della mistica sufi, e quindi appunto questa nostra concessione alla musica pop, ma forse adesso qualcuno mi bacchetterà a dire pop, è comprensibile. Allora, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano avete sentito anche Chiara Pellegrino della Fondazione Oasis, che ci ha spiegato appunto il sufismo, ma adesso è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo, una nuova pagina di questo viaggio nell'Islam. چهرانه یعنی شهری که اچی که توش میبینی باعث تحریکه تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود اینجا همه گرگه In questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, in cui cerchiamo di analizzare le parole sull'Islam che non possiamo non conoscere, che tante volte leggiamo sui giornali o ascoltiamo durante i telegiornali, è venuto il momento di capire meglio la parola velo, i tipi di velo e il suo significato. E lo facciamo con Renata Pepicelli, che insegna islamistica all'Università di Pisa, autrice fra gli altri volumi del libro Il velo nell'Islam, storia, politica e estetica, edito da Carocci. Professoressa Pepicelli, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Salve a tutti. Allora, partiamo dalle parole. Quanti tipi di veli ci sono e come si chiamano? Quelli che sono più comuni attorno a noi sono sicuramente innanzitutto l'hijab, che è il velo che incornicia il volto lasciandolo scoperto e quindi coprendo in pratica la testa, il collo e le orecchie delle donne. Poi abbastanza comune nei nostri, sempre più anche nelle città europee, seppur molto minoritario, è il niqab, e vale a dire quel velo che copre anche il volto lasciando solamente gli occhi scoperti, e talvolta anche gli occhi sono coperti da un leggero velo trasparente. Accanto a questi due veli abbiamo una miriade di altri veli, quali può essere il chador utilizzato nella Repubblica Islamica dell'Iran, o il khimar, che copre oltre la testa anche il petto delle donne. E poi abbiamo il cosiddetto, il velo imposto dai talebani in Afghanistan, che è il burqa, che è un velo estremo che copre completamente il corpo della persona, non permettendo di identificare neanche le forme del corpo, nelle braccia, nelle gambe, perché è una grande tenda che copre completamente tutto il corpo e che permette la vista solamente attraverso una piccola rete posta davanti agli occhi. Sì. Che differenze ci sono tra questi tipi differenti di velo? Hanno anche un significato religioso diverso, evidentemente. Sì, allora le differenze tra i veli ci raccontano innanzitutto differenze anche geografiche e quindi di tradizioni differenti di copertura del corpo delle donne, e questi veli diversi ci raccontano di differenti interpretazioni dell'Islam sul velo e sull'obbligatorietà o meno del velo per le donne. Quindi c'è un dibattito in corso anche all'interno del mondo islamico sul significato del velo, dei diversi tipi di velo. Esiste anche un dibattito che molto spesso è foriero di strumentalizzazioni invece nell'Occidente, perché la vulgata, o quantomeno la narrativa dominante, dice: ecco, le donne non sono libere, e quindi il togliersi il velo, come abbiamo visto in alcune immagini di liberazione, per esempio, no, dall'ISIS, viene visto come trionfo della libertà, volendo anche del femminismo, eccetera. Lei, professoressa, che cosa si sente di rispondere a questa narrativa che è sempre più potente? Quindi donna non libera fin tanto che porta il velo. Noi oggi stiamo assistendo ad un fenomeno crescente di donne che scelgono di indossare il velo, e che lo scelgono anche in un contesto come quello europeo o occidentale di crescente islamofobia. Perché queste donne scelgono di indossare il velo? È questa la domanda forse che ci dovremmo porre con più forza. Il velo, agli occhi di coloro che lo scelgono, è un atto di modestia, è un atto di sottomissione a Dio, di cui le donne si fanno ogni giorno portatrici. Accanto a spiegazioni di carattere religioso, dobbiamo tenere in conto spiegazioni di carattere identitario. Il velo rappresenta sempre più l'identità della, per alcuni molto meno, l'identità della comunità, delle comunità musulmane nel mondo, diventa una bandiera. Una cosa che vorrei però aggiungere su tutto questo discorso sul velo, di fare attenzione a non dimenticare le donne musulmane che il velo continuano a indossarlo e che non vogliono indossarlo, e che sempre più oggi il dibattito sul velo in qualche modo marginalizza come non musulmane o non pienamente musulmane. Ha fatto bene a ricordarlo, professoressa, buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti voi, arrivederci. E dopo aver sentito la voce di Renata Pepicelli, che insegna islamistica all'Università di Pisa, autrice di Il velo nell'Islam, storia, politica, estetica, edito da Carocci, è venuto il momento di affrontare un'altra parola molto ricorrente, l'abbiamo sentita tantissime volte, mai sufficientemente spiegata. La parola è jihad, e affidiamo la spiegazione a Massimo Campanini, che insegna storia dei paesi islamici all'Università di Trento. Ma allora, innanzitutto, dal punto di vista strettamente letterale, semantico, jihad vuol dire sforzo. Il verbo jahada vuol dire sforzarsi, ovviamente sulla via di Dio. È chiaro che lo sforzo sulla via di Dio può essere di vario genere. Ci può essere lo sforzo spirituale, lo sforzo fisico perfino, e last but not least lo sforzo militare. Il profeta ha lasciato dei detti in cui ha sostenuto, per esempio, che il partire è un jihad, che il fare il pellegrinaggio è un jihad, e comunque il jihad è tutto ciò che soddisfa Dio. Poi nel corso dell'evoluzione diciamo così giuridica del pensiero islamico classico, al termine jihad è stato dato anche il significato militare, di appunto sforzarsi sulla via di Dio dal punto di vista bellico. Tuttavia anche qui bisogna fare una distinzione, nel senso che sicuramente in nessun senso questo impegno può essere inteso nell'ottica di una guerra santa. Cioè il jihad è inteso dai giuristi del periodo classico medievale essenzialmente come un combattimento difensivo, quindi in questo senso non può essere considerato una guerra santa, cioè una guerra combattuta per l'espansione della religione o per la costrizione degli altri, dei non musulmani, a diventare musulmani. Che poi nell'età contemporanea le distorte interpretazioni anche da parte dei jihadisti abbiano caricato questa espressione, questo concetto di un valore anti-occidentale è sicuramente vero. Era Massimo Campanini che insegna storia dei paesi islamici all'Università di Trento. Adesso Nessun Luogo Lontano si prende una piccola pausa, ma ritorna tra poco. Nessun luogo è lontano. Le parole dell'Islam che non possiamo non conoscere. Questo è il tema di questa sera, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Rush finale perché siamo quasi in chiusura, ma c'è ancora un piccolo tema che vorremmo trattare, perché in questo viaggio nelle parole dell'Islam ci permettiamo in qualche modo una piccola digressione. Nel mondo musulmano vi sono degli attori particolarmente importanti. Tra questi attori sicuramente vi sono i paesi del Golfo, gli Emirati, il Qatar, l'Arabia Saudita, che anche recentemente ci hanno consegnato cronache di tensioni, di dispute e probabilmente anche di nuovi assetti geopolitici. Per dissipare le nebbie, o forse le nuvole di sabbia dovremmo dire, vista la collocazione che albergano attorno a quell'area, c'è con noi Rolla Scolari, giornalista della Stampa, esperta del mondo arabo e direttrice anche della Fondazione Oasis. Rolla, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, Rolla, potremmo intitolare questo piccolo capitolo di questa puntata Il Golfo, questo sconosciuto. Gli attori sono tanti, non sempre si leggono sulle prime pagine dei giornali. Questo è accaduto molto più recentemente con questa disputa tra Qatar e Arabia Saudita. Ci aiuti un po' a ricollocare appunto quelli che sono i rapporti di forza intanto tra questi due paesi e poi andiamo un po' più nello specifico. Intanto ci sono due fazioni, ovviamente c'è l'Arabia Saudita assieme agli Emirati Arabi che si oppongono, ma ormai da tempo, questo è l'apice di una crisi che dura da diverso tempo, al Qatar, il piccolo emirato che ha una politica estera diversa rispetto agli altri paesi del Golfo, del Consiglio di Cooperazione del Golfo, che hanno negli Emirati e nell'Arabia Saudita i leader principali. Che sì. Cosa succede? Succede che il Qatar sostiene, soprattutto dal 2011 dopo le rivolte arabe, degli attori come gruppi islamisti o i fratelli musulmani in paesi come la Libia, la Siria e l'Egitto, laddove invece Arabia Saudita ed Emirati Arabi sono su un altro fronte. Sì. Allora, il Qatar poi dobbiamo anche ricordare, grande potenza economica, ricordiamo la linea aerea per esempio, che è un grande ferro all'occhiello, conosciuta un po' in tutto il mondo, e poi soprattutto dobbiamo ricordare la potenza televisiva, no? di questo piccolo emirato. Sicuramente, Al Jazeera che è stata protagonista controversa appunto di quelle rivolte arabe di cui ho parlato nel 2011, appoggiando proprio quelle parti e fazioni politiche che erano opposte comunque alla politica estera dell'Arabia Saudita e degli Emirati, quindi si ritorna sempre a questa posizione del Qatar che è differente per quanto riguarda appunto la collocazione nello scacchiere medio orientale rispetto a quella di Emirati e Arabia Saudita, e soprattutto scordavo di menzionare un altro attore importante nei confronti dell'Iran. L'Iran è il grande rivale di Emirati e Arabia Saudita, non lo è del Qatar che su certi dossier anzi è abbastanza vicino a questo grande grande rivale regionale di Riyadh e Abu Dhabi. Ecco, hai giustamente menzionato l'Iran, e questa cosa, questa tua citazione, mi dà il destro per in qualche modo anche rompere un preconcetto, un pregiudizio che molti di noi hanno probabilmente nel considerare quindi il mondo sunnita e il mondo sciita, le due grandi correnti dell'Islam, come due correnti monolitiche. Invece scopriamo che all'interno del mondo sunnita vi sono diverse posizioni, quelle più estreme, quelle che appoggiano la fratellanza musulmana, per esempio, e accade anche che a un certo punto un paese sunnita possa avere interessi comuni con un paese sciita, appunto come l'Iran. Questa cosa quindi ci fa capire come la lente di ingrandimento opposizione sunniti sciiti non sempre spiega quello che accade in un teatro come quello del Golfo. Assolutamente sì, questa crisi prova che esistono delle fratture all'interno di quello che possiamo chiamare il blocco sunnita. Faccio un altro esempio, un paese che ha inviato aiuti alimentari al Qatar è stato il Marocco. Marocco, altro grande paese sunnita, che però si oppone in un certo senso, non in maniera... Non in scontro, ma si oppone comunque al tipo, al brand di Islam molto conservatore dell'Arabia Saudita, nel tentativo di esportare un Islam sia in Africa, sia in Medio Oriente, sia in un certo senso in Europa, che è molto più tradizionale, molto più istituzionale, sì, e molto più moderato. Sì. L'ultimissima domanda, Rola Scolari, riguarda il ruolo dell'Arabia Saudita. Io ricordo almeno un anno fa circa, il New York Times fece un lunghissimo reportage, un lunghissimo articolo in cui fondamentalmente era un gigantesco jacuzzi contro il ruolo dell'Arabia Saudita nel sobillare, nel finanziare, nel cercare di diffondere una visione dell'Islam molto restrittiva. Questa visione, come dire, tutta americana, trova corrispondenza dal tuo punto di vista, o anche qui siamo di fronte a, come dire, una visione un po' troppo semplificata? Allora, il Qatar viene accusato di sostenere gruppi islamisti più o meno radicali. Il brand di Islam ultraconservatore dell'Arabia Saudita è sicuramente alla base di molti radicalismi e della formazione di molti gruppi fondamentalisti nella regione e oltre la regione. Quindi questo sicuramente è un fattore che preoccupa, perché per esempio in Indonesia, io sono stata poco tempo fa in Indonesia, ho parlato con molti leader islamici lì, e la paura di molte organizzazioni moderate era proprio la presenza, il finanziamento dell'Arabia Saudita a moschee, gruppi, movimenti religiosi nel paese, e quindi la trasformazione, la metamorfosi dell'Islam tradizionale locale più moderato in qualcosa di molto più conservatore, molto più radicale, che poi rischia di aprire derive fondamentaliste. Certo. Grazie mille Rola Scolari per essere stata con noi, la potete leggere sulla Stampa e Fondazione Oasis. Grazie mille Rola, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Tempo scaduto, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Adesso Andrea Roccabella, è tempo di titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Tali, Elisa Pancaldi in redazione, Andrea Roccabella appunto in regia. Voi per essere stati all'ascolto, seguiteci sui social, Facebook, nel suo luogo lontano trattino Radio 24. L'appuntamento è per domenica prossima ore 19:10, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto, una buona serata da Giampaolo Musumeci.